Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Ci mettiamo come ogni mese in ascolto della parola di Dio. Stiamo facendo proprio un percorso lungo il testo, lungo la narrazione degli Atti degli Apostoli. E l'ultima volta, nella nostra ultima puntata, abbiamo terminato, ultimato il capitolo 12. Quindi questa sera ci soffermeremo insieme su una parte del capitolo 13, nella narrazione degli Atti degli Apostoli. Chiedo a quanti ne hanno la possibilità di prendere un'edizione del Nuovo Testamento, o meglio della Bibbia intera, per aprirla davanti a sé e per percorrere il testo avendo proprio il brano sott'occhio. Invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo perché questa ora e mezza che trascorreremo insieme possa tornare utile alla nostra vita, possa plasmare non solo il cuore, la vita, ma scaldare quelle che sono le nostre giornate, raggiungerci proprio nel nostro quotidiano, sapendo che la parola di Dio è proprio come un seme che cade nel terreno della nostra vita e vuole suscitare germogli, germogli di speranza, germogli di novità. Come sapete, l'obiettivo della nostra trasmissione, di questo nostro appuntamento mensile, è triplice. Prima di tutto il nostro obiettivo è quello di far sì che la parola non resti ferma alla nostra testa, ma tocchi la vita. Ecco perché facevo l'esempio del seme. Quando il seme cade nel terreno produce germogli e quindi deve schiudere, spezzare qualcosa nel terreno del nostro essere, in modo da suscitare qualche germoglio di speranza. Il secondo obiettivo è quello di accogliere questa parola come dono, e quando uno scarta un dono, quando apre un dono, è attento al dono in sé e a tutti i suoi aspetti. Quindi noi vogliamo accogliere il dono degli Atti degli Apostoli facendo attenzione al dettaglio, quindi alle singole parole della narrazione, ma anche all'insieme della narrazione. Il fatto che certi episodi siano portati, siano narrati non all'inizio della trama, ma lungo il percorso, magari a metà, magari alla conclusione di un episodio particolare, ha ovviamente il suo significato. Quindi lo vedremo soprattutto stasera, dove ci confrontiamo con la Chiesa di Antiochia, il fatto che si parli di questa Chiesa di Antiochia in un momento particolare della narrazione ha un suo significato. Quindi nostro obiettivo, oltre a quello di far entrare la parola con la nostra vita, è di fare attenzione al dettaglio e all'insieme della narrazione. Poi c'è un terzo obiettivo che ci coinvolge entrambi, è quello di ricordarci che siamo discepoli dell'unico maestro. L'unico maestro è colui che ci parla attraverso i brani su cui ci soffermiamo, che meditiamo. E se a me viene chiesto il servizio di spezzare la parola nei primi tre quarti d'ora, a voi viene chiesto il servizio di interpellare questa parola, cioè portare avanti quella che è la riflessione attraverso i vostri interrogativi. Ecco perché la nostra puntata si divide sempre in due parti affini, simili quanto a durata. I primi tre quarti d'ora sono la mia catechesi sulla parola degli Atti degli Apostoli, la seconda parte è la parte delle vostre domande, che vedremo sono altrettanto preziose quanto la mia catechesi, perché spesso una domanda, una sottolineatura, un intervento permettono di mettere a fuoco aspetti che altrimenti sfuggirebbero, oppure di chiarire meglio alcuni concetti che altrimenti verrebbero compresi male o in modo parziale. Quindi entriamo nel testo degli Atti degli Apostoli proprio con questi tre obiettivi: fare incontrare la parola con la nostra vita, fare attenzione all'insieme ma anche al dettaglio, ed essere discepoli di un unico maestro. Sono certo che lo Spirito Santo aiuterà ciascuno a sentire viva questa parola. Sia chi in questo momento vive un momento di gioia, sia chi vive un momento di fatica, sia chi al termine della giornata, dopo gli incontri che ha fatto, i lavori che ha compiuto, sente di avere qualche cosa da presentare alla luce del Signore, perché il Signore la rischiari con la sua parola. Entriamo nella trama degli Atti, riprendiamo il nostro percorso nella trama degli Atti, leggendo il capitolo 13. Divideremo la nostra lettura anche qui in tre momenti. Il primo momento ci scatta la fotografia della comunità di Antiochia. Siamo al capitolo 13, leggiamo i versetti da 1 a 3. Luca, narrando, scrive così. Nella chiesa di Antiochia c'erano profeti e dottori, Barnaba e Simeone, soprannominato Niger, Lucio di Cirene e Manaen, compagno d'infanzia di Erode Tetrarca, e Saulo. Un giorno, mentre celebravano il culto del Signore e facevano digiuno, lo Spirito Santo disse loro: riservatemi Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho destinati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li lasciarono partire. Bene, in questo capitolo, in questi tre versetti, ci viene scandito uno dei momenti chiave della storia delle origini cristiane. È il momento in cui la comunità cristiana si apre alla missione ad gentes, cioè alla missione ai gentili, anche se il primo passo, lo vedremo, viene fatto nell'ambito, come dire, più contenuto di quello che è il giudeo-cristianesimo, di quei cristiani che hanno aderito alla fede in Gesù provenendo prima da un'osservanza giudaica. La composizione della chiesa di Antiochia, che ci viene un po' fotografata da questi tre versetti, si presenta alquanto diversa da quella della chiesa madre, della chiesa di Gerusalemme. Perché, se è vero che la chiesa di Gerusalemme aveva già delle sfaccettature diverse al suo interno, abbiamo visto a suo tempo che era composta dagli apostoli, quindi dai dodici, dalle donne e dai parenti di Gesù, quindi al suo interno aveva comunque delle diversità significative, pur proveniendo tutti dallo stesso ceppo, dal ceppo giudaico, in questo caso le differenze ad Antiochia sono molto più accese. Ci viene detto che nella comunità di Antiochia ci sono profeti e dottori, sono due carismi diversi. C'è il carisma della profezia, che consiste nel discernimento dell'oggi e nel discernimento delle porte che si spalancano sul futuro, quindi è un carisma, se volete, legato al tracciare la volontà di Dio perché la comunità possa seguirlo, e ci sono i dottori. Chi sono i dottori? Sono coloro che hanno invece il dono dell'insegnamento, il dono della formazione dei cuori e delle anime, in modo che le persone siano in grado di imboccare la strada. Per dire, il profeta è colui che coglie per la comunità cristiana di Antiochia, ad esempio, che la pagina di persecuzione che questa comunità può vivere è una pagina che associa la comunità al mistero di Cristo e quindi va imboccata, non bisogna ribellarsi, bisogna assumerla e fare di questa pagina di persecuzione un trampolino di lancio. Il dottore è colui che fortifica i cuori per far sì che questi cuori siano in grado di affrontare una pagina di persecuzione. Sono due carismi diversi che non vengono dati alla stessa persona in genere. Poi si va avanti, il testo dice che all'interno dei profeti e dei dottori ci sono figure come Barnaba, che sappiamo essere originario di Cipro, e Simeone, soprannominato Niger. Il fatto che questo sia soprannominato Niger o Niger indica probabilmente un richiamo a quello che era il colore della sua pelle, quindi uno scuro di carnagione, che indica una provenienza probabilmente dalla parte africana o comunque da terre anche che potrebbero provenire dall'Oriente, dall'estremo Oriente, insomma, con una carnagione piuttosto pura. Poi si parla di Lucio di Cirene, la Cirenaica era la parte del Nord Africa, e un certo Manaen, compagno di infanzia di Erode Tetrarca, cioè uno appartenente alla famiglia degli Erodiani, che sappiamo avere comunque un rapporto conflittuale con l'ambito giudaico. E poi viene menzionato questo Saulo, che sappiamo essere di Tarso e che proviene da un'estrazione farisaica, una scuola di farisaica, docche molto molto forte, da cui poi è partito anche il processo di rivelazione o conversione, come noi la chiamiamo, nel famoso viaggio lungo la strada di Damasco. Quindi vengono nominate alcune persone, Barnaba, Simeone, Lucio di Cirene, Saulo e Manaen, cinque persone che sono tra di loro diverse. Quindi una chiesa che si presenta fin dall'inizio sotto l'immagine, come dire, dell'armonia delle diversità, dell'armonia dei colori, anche solo dal punto di vista della carnagione dei suoi membri. Persone che hanno carismi diversi, che sanno però vivere insieme il dono di questa coinonia. Ora, questo aspetto che viene subito enunciato per quanto riguarda la comunità di Antiochia è un tratto caratteristico di questa comunità. E nel momento in cui la comunità di Antiochia vivrà delle difficoltà, sarà sempre un momento in cui questa armonia viene ad essere intaccata, cioè è divisione, l'elemento che creerà problema nella storia di Antiochia, ma che proprio perché crea problema permetterà all'intera comunità cristiana di fare dei passi in avanti. E allora capiamo che il fatto che Luca sottolinei come primo aspetto, primo elemento della comunità cristiana di Antiochia, l'armonia delle differenze, è perché questo valore è l'elemento sostanziale, l'elemento che dovrà essere tutelato di più all'interno di questa comunità. Ovviamente questo era un elemento anche importante nella Chiesa Madre, nella Chiesa di Gerusalemme, però allora, agli inizi della storia cristiana a Gerusalemme, il problema era un altro, era quello di tre gruppi che tutti e tre, come dire, rivendicavano la trasmissione fedele del Cristo, gli apostoli, Maria, i parenti di Gesù. Ognuno diceva: noi siamo i reali depositari dell'insegnamento e della vita di Gesù Cristo. Nel caso di Antiochia invece la cosa è diversa, c'è una composizione, non è in questione la trasmissione del vero Gesù, non è in questione questo, è in questione la capacità di cogliere come una ricchezza il fatto della diversità, cioè l'armonia delle differenze, la coinonia delle differenze. Ora, in questa coinonia, ci viene detto, lo Spirito Santo opera. E se noi dovessimo, partendo da questi primi tre versetti, dire chi è il protagonista di questa scena che apre la porta della missione, dove avviene questa scena che spalanca le porte della missione e come avviene questa spinta, dovremmo sempre dire, mettere dentro di questa risposta lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il vero protagonista della missione cristiana, che poi si esplicita in Paolo, in Pietro, in Barnaba e in tante altre figure, ma la forza che spinge l'elemento propulsore di questo slancio missionario è certamente lo Spirito Santo. Ora, dove avviene la scintilla che fa scattare la missione? Il dove trova una risposta nel versetto 2 del racconto. Ci viene detto che un giorno, e anche qui non prendiamolo come un elemento, casuale della narrazione. Un giorno indica l'ordinarietà. Lo Spirito Santo, per intervenire nella vita dei suoi fedeli, non è che aspetta un elemento straordinario, non è che aspetta che noi terminiamo una novena o celebriamo una festa in modo solenne. Lo Spirito ha la libertà di intervenire nel momento più ordinario, della nostra storia. Del resto, quando noi leggiamo il racconto del Vangelo di Luca, ci rendiamo conto che uno dei momenti più importanti della storia della salvezza, quello dell'incarnazione di nostro Signore nel grembo di Maria, avviene in un momento ordinario. Non c'è una cornice sacrale per il momento dell'annuncio dell'angelo a Maria. Maria non ci viene detto che in quel momento stava pregando o era raccolta in un atto pubblico al Tempio, come invece è stato per Zaccaria. No, l'irruzione dello Spirito Santo nella vita di Maria avviene in un momento ordinario, di vita ordinaria, proprio come succede qui. L'apertura della missione avviene in un momento ordinario, un giorno. Poi però viene precisato, mentre celebravano il culto del Signore e facevano digiuno. Cioè, nell'ordinarietà accompagnata da un atto liturgico e dalla disposizione del digiuno dei fedeli, lo Spirito Santo riesce a parlare e a far sentire la sua voce alla comunità, dicendo: riservatemi Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho destinati. Anche qui è interessante, lo Spirito Santo non è che si presenta con un papiro dicendo: guardate, Barnaba e Saulo devono andare prima a Cipro, poi devono andare più a nord, poi lì devono fermarsi un mese, poi spostarsi. No, non è che lo Spirito Santo agisce dicendo per filo e per segno tutto quello che Barnaba e Saulo devono fare. Interviene dicendo: riservatemi, riservateli per me, per l'opera alla quale li ho destinati. Sono destinati a un'opera dello Spirito Santo, però quest'opera verrà delineandosi passo passo. Pretendere di conoscere tutta l'opera dall'inizio alla fine, quando si parte, sarebbe un grave errore. La logica dello Spirito non è, come diceva il mio fondatore, Giacomo Alberione, non è accendere tutte le luci in una volta, ma accenderne una per volta, passo dopo passo. E più uno compie il passo, più uno si mette in movimento, più si illumina la strada che sta davanti a sé. Ed è interessante la reazione della comunità, come risponde la comunità. Dopo aver digiunato e pregato, cioè i due elementi della preghiera e del digiuno sono importanti per far discernimento, per capire se quello che hanno intuito dello Spirito Santo, hanno sentito dello Spirito Santo, sia reale o sia invece un frutto solo del loro pensiero, e soprattutto cosa vuol dire riservatemi per me Barnaba e Saulo. Dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li lasciarono partire. Capiscono che dietro l'appello dello Spirito Santo c'è un invito a un'uscita, a un esodo, per cui Barnaba e Saulo si mettono in cammino dopo aver ricevuto l'invocazione dello Spirito Santo con quel gesto, il gesto dell'imposizione delle mani, da parte della comunità. Ecco quanto è bello questo gesto, cioè vedere una comunità che impone le mani sui propri pastori, sulle persone che lo Spirito ha scelto per guidare la comunità di Antiochia. Ora noi a distanza di tempo leggiamo questi tre versetti con semplicità, come se fosse quasi una cosa normale, il fatto che la comunità manda due dei suoi appartenenti, dei suoi figli come missionari. Dobbiamo tenere presente che nel primo secolo slanci missionari veri e propri non è che esistevano, non esisteva la missione come la conosciamo noi oggi. Per una comunità come quella di Antiochia, che è sotto l'occhio un pochino delle comunità giudaiche, prendere due persone, probabilmente anche di un certo spessore, e mandarle ad annunciare il Cristo fuori dal proprio territorio non era semplice, significava esporsi, significava aprirsi a dei percorsi che avrebbero comunque messo in crisi la comunità di Antiochia, significava prepararsi a un percorso di paternità e maternità spirituale, che non è scontato. Ecco, tutto questo però innesca nella comunità di Antiochia un movimento che è in parte parallelo a quello di Gerusalemme, quando si era aperta ai samaritani e quando si era aperta ai pagani, ma nello stesso tempo innesca un'apertura molto maggiore rispetto a quella di Gerusalemme, perché ad Antiochia noi si parte già con un orizzonte molto più aperto alla diversità, che abbiamo colto fin dal primo versetto. Lasciamo ora un breve stacco musicale, in modo che ciascuno di voi ascoltatori possa rileggere un attimo questi tre versetti. Dopodiché continueremo con il racconto e vedremo cosa succede agli inizi di questa missione a Barnaba e a Saulo. Quindi un breve stacco musicale e poi riprendiamo. Poi i primi tre versetti del capitolo 13 continuiamo con il racconto, vediamo cosa succede dopo che lo Spirito Santo si è riservato Barnaba e Saulo. Continuiamo leggendo dal versetto 4. Essi, inviati dallo Spirito Santo, scesero alla città di Seleucia, da dove si imbarcarono alla volta di Cipro. Arrivati nella città di Salamina, si misero ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Avevano con sé anche Giovanni in qualità di assistente. Attraversarono tutta l'isola fino alla città di Pafo. Qui trovarono un certo Bar Jesu. Era un giudeo che si spacciava per profeta ed era anche un mago. Viveva al seguito del governatore dell'isola, Sergio Paolo, un uomo intelligente che aveva fatto chiamare Barnaba e Saulo perché desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma il mago Elimas, così infatti si traduce il suo nome, si opponeva alla loro azione e cercava di distogliere il governatore dalla fede. Allora Saulo, soprannominato anche Paolo, pieno di Spirito Santo, lo fissò e gli disse: «Gran imbroglione ingannatore, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando la smetterai di distorcere le vie diritte del Signore? Ecco, la mano del Signore è su di te, sarai cieco e per un certo tempo non potrai più vedere il sole». Di colpo oscurità e tenebre caddero su di lui e barcollando cercava qualcuno che lo guidasse. Allora il proconsole, vedendo l'accaduto, credette, colpito dall'insegnamento del Signore. Allora, notiamo subito che al momento della partenza Barnaba e Saulo non brillano per coraggio. Perché dico così? Perché è il primo orizzonte missionario dove si dirigono è praticamente quello rassicurante della loro terra d'origine. Barnaba, che guida la missione, sappiamo essere originario di Cipro e quindi la prima terra dove lui si orienta è proprio la terra in cui è nato, quasi a dire i primi tesori cominciamo a condividerli con quelli di casa, poi vediamo pian piano dove conduce lo Spirito Santo. L'autore sacro tiene però a sottolineare che tutto questo ha per protagonista le quinte proprio lo Spirito che li ha scelti. Essi, inviati dallo Spirito Santo, dice il versetto 4, scesero alla città di Seleucia da dove si imbarcarono alla volta di Cipro. Quindi quelle che possono essere a volte anche le nostre prudenze umane, ecco, dietro c'è anche lo Spirito che accompagna e pian piano schiude. Tanto vero che all'arrivo a Salamina, cioè questa città dell'isola di Cipro, dove si mettono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, l'autore sacro dedica pochissimo, cioè non è che si sofferma più di tanto su questo aspetto, dice semplicemente che in modo rassicurante vanno nella patria di Barnaba, iniziano nelle sinagoghe, ma poi l'attenzione di Luca si sposta subito su un altro aspetto, sull'incontro tra Barnaba e Saulo con un pagano, con Sergio Paolo. Di quest'uomo ci viene detto che è un uomo intelligente, synetō in greco, cioè un uomo che non si limita ad ascoltare, vuole capire le cose. E questa sua intelligenza si manifesta nella ricerca della via di Dio, una ricerca che è desiderio di ascoltare la parola di Dio, è desiderio di ascoltare Barnaba e Saulo. Però subito, a confronto con un uomo pagano, si pone una questione, la questione di un cosiddetto sincretismo. Quest'uomo, per quanto intelligente, si fa accompagnare da un mago, per cui quella che è la sua ricerca è una ricerca malata. È una ricerca malata perché da un lato è ricerca autentica, dall'altro è superstizione, per cui si porta con sé un uomo che si spaccia per essere una persona fedele, ma è uno che si dedica alla magia. E guardate, a volte questa forma di sincretismo sotto sotto c'è anche dentro di noi. Da un lato diciamo di abbandonarci alla provvidenza di Dio, da un lato ripetiamo continuamente sia fatta la tua volontà, dall'altro invece ci accompagniamo di gesti, di forme di invocazioni, di scaramanzie che con Dio hanno proprio poco a che fare. Stupisce a volte, no? Dal collo delle persone siamo capaci di trovare nell'unica catenina il cornetto e la croce. E questo, insomma, mi sembra che possa essere un modo molto affine a questa pagina degli Atti degli Apostoli, dove Sergio Paolo, da un lato, è intelligente, per cui è un uomo in ricerca, e questa sua ricerca però un occhio aperto su Dio e l'altro occhio aperto alla superstizione, un occhio teso al Barnaba e Saulo e l'altro teso a questo Bar Jesu, figlio di Gesù sarebbe la sua traduzione, anche il nome è un tra l'altro è un nome doppio, Bar Jesu Elimas, figlio di Gesù, figlio di Dio, è un po' ambigua questa traduzione del nome, e nell'ambiguità del nome c'è anche un po' l'ambiguità di questa losca figura. Di fronte a questa losca figura, la prima cosa che Saulo insegna a Sergio Paolo è quello che deve tagliare, non c'è niente da fare, non si può camminare con il piede in due scarpe, non si può camminare dando mano alla provvidenza di Dio e dando mano alla scaramanzia dall'altro, con la magia da un lato e con Dio dall'altro, bisogna tagliare, e questo taglio netto lo procura Paolo stesso, vedendo che Elimas fa di tutto per ostacolare l'adesione alla fede di quest'uomo intelligente, che probabilmente ha capito che nell'annuncio di Barnaba e Saulo c'è una via di salvezza, e allora interviene con una punizione molto dura, perché ci dice che Saulo, soprannominato anche Paolo, interessante, qui è la prima volta che Paolo viene chiamato per nome, per il nome con cui noi lo conosciamo. Non si capisce se questo cambio del nome sia legato a, come dire, l'inizio del ministero autentico dell'Apostolo, perché da questo momento in poi effettivamente Paolo prende in mano le redini della situazione e diventa l'apostolo che noi conosciamo, colui che guida la missione. Fino adesso è stato Barnaba un po' a guidare le cose, da questo intervento sarà Paolo che le guida, quindi sembra quasi che l'accenno al cambiamento del nome sia l'accenno a un passaggio nella vita di Paolo, dove lui diventa il capo cordata. Altri invece ritengono che il passaggio del nome indichi un passaggio a un orizzonte diverso di annuncio, cioè con Sergio Paolo inizia l'annuncio ufficiale al mondo pagano come emblema missionario, perché in fondo finché noi ci siamo trovati con Pietro a Cesarea, in fondo Pietro a Cesarea era andato ma poi era ritornato nell'alveo della comunità di Gerusalemme. Ma nel caso invece di Saulo le cose sono diverse, Saulo e Barnaba sono partiti in missione e questa missione comincia a dirigersi in modo deciso verso i pagani, allora i pagani hanno bisogno anche di un linguaggio, di un modo di presentarsi che sia più adeguato a loro, e questo spiegherebbe, secondo alcuni studiosi, il cambiamento di nome di Paolo. Bene, Paolo se la prende con il mago Elimas e utilizza per lui delle parole molto forti che ritroviamo anche nei Salmi per le persone empie. Lo chiama imbroglione, ingannatore, figlio del diavolo, nemico della giustizia, e poi fa piombare su di lui la cecità. Dice il testo, per un certo tempo non potrai vedere più, cioè per quanto la punizione che invoca, che è una sorta di maledizione praticamente, che Paolo invoca sul mago Elimas, è una, come dire, una sorta di punizione terapeutica, cioè questa cecità dovrebbe spingere il mago a cercare effettivamente la via della giustizia, tanto vero che in modo un pochino ironico Luca aggiunge che colpito da oscurità e tenebre che cadono su di lui, il mago barcollando cercava qualcuno che lo guidasse. Ecco, questa che fino adesso non era stata una sua virtù, diventa una sua virtù. Si rende conto che effettivamente barcolla e ha bisogno di qualcuno che lo guidi alla verità. Proprio quella stessa verità che Sergio Paolo cercava. Il mago invece si spacciava per essere un giudeo, ma non si accorgeva che era un uomo che barcollava e che cercava, aveva bisogno della verità. Di fronte a questo prodigio, Sergio Paolo aderisce al messaggio di Barnaba e Saulo e quindi, come dire, dà un certo successo a quello che è la loro missione. Noi vediamo che in questo percorso fa compagnia a Barnaba e a Saulo un certo Giovanni. Chi è questo Giovanni? Non è certamente il discepolo amato, non è certamente uno degli apostoli, non è il Giovanni che accompagnava Pietro nelle sue missioni, ma è quel cugino di Barnaba che era stato menzionato poco prima, il cosiddetto Giovanni Marco. Giovanni Marco, probabilmente originario di Gerusalemme, si era incamminato nella missione con Barnaba e Paolo, e Saulo, e attualmente li sta accompagnando. Vedremo però subito dopo che non durerà molto la sua esperienza missionaria, probabilmente perché il percorso di Barnaba e di Paolo si presenta subito molto esigente. Cosa ci dice questo brano, questa seconda parte del nostro racconto? Ci dice che l'esperienza della missione è certamente negli orizzonti dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo continua ad essere il protagonista, è lui che sceglie, è lui che invia, è lui che riempie Paolo quando punisce Elimas il mago. Ma nello stesso tempo gli orizzonti della missione ci dicono che ci sono dei terreni, dei territori di cui dobbiamo tenere presente, cioè la missione è un passo che non può fare qualsiasi persona, la missione può essere affrontata solo se accompagnati dallo Spirito Santo, perché ci sono alcuni casi che richiedono una preparazione particolare e il caso della preparazione particolare è proprio il caso del sincretismo con cui Barnaba e Saulo si trovano confrontati quando entrano nell'ambiente di Sergio Paolo. Va bene portare l'annuncio al mondo pagano, però il mondo pagano richiede delle attenzioni e le attenzioni sono caratterizzate da questo rischio, il rischio del sincretismo, il rischio di una percezione della realtà che va a braccetto con quella della superstizione. E questo era molto diffuso nell'ambiente pagano, soprattutto in un certo ambiente colto. Ecco allora che di fronte a questa cosa Saulo e Barnaba, soprattutto però il narratore, mettono subito l'ascoltatore sull'attenti, cioè attenzione, lo Spirito Santo è il grande maestro, la grande guida, bisogna partire con la sua luce e solo grazie al suo discernimento è possibile discernere eventuali intoppi che ci possono essere sul cammino. Ecco, concluderemo tra un po' con gli ultimi quattro versetti di questo racconto, quei quattro versetti che ci separano dal grande discorso di Saulo e che vedremo la volta prossima. Prima però di completare il nostro commento con i versetti da 13 a 16, lasciamo un altro breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi ascoltatori possa rileggere nuovamente questi secondi versetti che abbiamo commentato ora. Quindi, dopo la fotografia della comunità di Antiochia e dopo i primi passi dell'esperienza missionaria nell'isola di Cipro, con l'incontro con Sergio Paolo, il racconto prosegue con i versetti 13, da 13 a 16, dove ci viene raccontato un altro episodio importante. Ascoltiamo il testo. Paolo e i suoi compagni si imbarcarono da Pafo e giunsero a Perge di Panfilia. Ma Giovanni si separò da loro e se ne tornò a Gerusalemme. Essi proseguirono da Perge fino ad Antiochia di Pisidia. Il sabato entrarono nella sinagoga e si misero a sedere. Dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, ditela». Allora Paolo, alzatosi e fatto segno con la mano, disse: «Uomini di Israele, voi che temete Dio, ascoltate». Allora ci fermiamo qui, è anche un pochino il punto dove questa sera termineremo la nostra catechesi. Praticamente notiamo che dopo l'incontro con Elimas il Mago e con Sergio Paolo, Paolo e i suoi compagni si imbarcano da Pafo e giungono a Perge di Panfilia. Se voi guardate una cartina geografica, notate che il percorso che Paolo e Barnaba fanno da Cipro fino ad Antiochia di Pisidia è un percorso abbastanza contorto, non è facile, eppure viene liquidato in fretta. Bisogna attraversare le montagne del Tauro, quindi è un territorio un pochino impervio, bisogna affrontare un territorio dove la popolazione è in maggioranza una popolazione pagana. Ora, in questo secondo tratto del percorso ci viene detto che Giovanni si separa da loro e questo è l'elemento su cui mi voglio soffermare. Gli inizi della missione sono subito caratterizzati da un piccolo fallimento che deve aver punto però nella vita di Paolo, perché con Marco, insomma, questa defezione di Giovanni Marco a Paolo non andrà giù ed è una defezione tale che lo metterà anche in difficoltà di rapporto con Barnaba. E siamo agli inizi della missione, questo per dire che non è che tutto andava liscio come l'olio nemmeno agli inizi dell'esperienza missionaria. C'erano delle divergenze probabilmente di vedute. Giovanni, tornando a Gerusalemme, torna in un ambiente molto più, molto più rassicurante. È l'ambiente del cristianesimo che nasce dal giudaismo. Barnaba e Saulo stanno invece andando in un altro orizzonte, che è quello di portare il cristianesimo in un territorio pagano. Quindi siamo, di fronte ad un passo che le comunità e anche alcuni dei migliori all'interno della comunità, come Giovanni Marco, fanno fatica ad accogliere. Tanto vero che dopo la separazione di Giovanni Marco, la prima cosa che fanno è di tornare ancora in una sinagoga. Dopo la lettura della legge dei profeti, quindi è la tipica liturgia dello Shabbat, i capi della sinagoga mandarono a dire: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, ditela». Se avessero saputo la grande trasformazione che avrebbe portato il discorso di Paolo, che commenteremo la volta prossima, probabilmente non si sarebbero rivolti a loro in questi termini. Notiamo però subito che il modo di iniziare di Paolo è significativo. «Uomini di Israele, e voi che temete Dio, ascoltate». Cioè Paolo rivolge le sue parole non solo ai giudei, uomini di Israele, ma anche a tutti i pagani che sono affacciati alla sinagoga per nutrirsi della parola di Dio. «Voi che temete Dio». I timorati di Dio erano i pagani che avevano una certa simpatia per il giudaismo. E Paolo si rivolge espressamente anche a loro, il che ci fa capire che il suo percorso missionario, almeno quello che lo Spirito Santo gli ha messo in cuore e in testa, è già molto chiaro. Paolo vuole rivolgersi ai giudei e anche ai pagani che hanno, una certa attenzione verso alcuni valori umani ed ebraici. E qui avverrà la grande svolta. Questa svolta però avviene avendo all'orizzonte un'ombra, l'ombra di una defezione, la defezione di Giovanni Marco. Per quanto dolorosa questa possa essere, la defezione in questo caso diventerà una spinta per la missione. E vedrete alla fine della vicenda personale di Paolo, cioè quando Paolo sarà anziano, Marco sarà recuperato, cioè lo troveremo vicino, uno dei pochi che saranno vicino all'apostolo sarà proprio Marco, insieme a Timoteo, mentre tutti gli altri, bene o male, l'avranno abbandonato. Ora, cosa ci dice la pagina che abbiamo commentato questa sera, questi 16 versetti del capitolo 13 degli Atti degli Apostoli? Ci dice prima di tutto che la comunità cristiana fin dalle origini ha avuto un volto variopinto. Una comunità cristiana che sia troppo monocolore o monocorde non può essere una comunità guidata dallo Spirito, proprio perché i doni dello Spirito sono diversi tra loro. C'è il dono della profezia, c'è il dono delle lingue, c'è il dono dell'insegnamento, c'è il dono della guida di una comunità, cioè lo Spirito di per sé, in sé, è qualcosa che porta doni, e questi doni si riverberano nell'armonia delle differenze. Quindi questo è il primo messaggio che ci viene dato. Un secondo messaggio è: attenzione al cammino con i piedi in due scarpe, cioè non si può abbracciare il percorso di Dio e la superstizione dall'altro lato, non si può essere sincretisti, a volte lo siamo e facciamo finta di non saperlo, uniamo la croce con altri elementi che di cristiano hanno poco o niente, portando avanti delle forme sottili di sincretismo. Ecco, l'incontro tra Paolo e il proconsole, il mago, ci dicono che insomma, a un certo punto bisogna fare piazza pulita e soprattutto bisogna avere una formazione solida per poter interagire con un mondo che cambia e che è diverso da quello che porta con sé delle sfide. Il mondo pagano rappresenta una sfida per Paolo e Barnaba, come il mondo sfaccettato nel quale noi ci confrontiamo porta delle sfide. Interpellano la nostra fede cristiana, non possiamo avere la fede del recinto, siamo chiamati ad uscire e quindi a misurarci con il mondo esterno. E poi l'ultimo insegnamento che possiamo trarre dai versetti che abbiamo commentato insieme questa sera è il mistero della defezione di Giovanni Marco. A volte noi ci ostiniamo a voler portare tutti con noi. Il testo di stasera ci dice che in alcuni casi è impossibile portare tutti con noi. La defezione fa parte del gioco, fra virgolette, a volte bisogna saperla accettare, sapendo che se la defezione è avvenuta con rettitudine, a un certo punto il buon Dio illuminerà sicuramente. E se noi siamo dalla parte di coloro che vivono la defezione, cioè si allontanano da un gruppo, da un movimento, da una realtà, per diverse ragioni, il tempo ci aiuterà a capire se la nostra scelta è stata saggia o no. L'importante è avere quell'umiltà di saper, come dire, mettere in discussione anche le cose che abbiamo fatto con la convinzione più assoluta. Lasciamo, cari ascoltatori, che questi versetti possano davvero illuminare la nostra vita, come ci siamo detti per quanto riguarda gli obiettivi di questa nostra puntata all'inizio. Ed ora entriamo nella seconda parte della nostra trasmissione. Vi dicevo, la nostra catechesi si modula su due momenti, quello della catechesi che abbiamo appena terminato, e quello invece delle vostre domande, dei vostri interventi. La regia ora vi darà alcune indicazioni per poter intervenire e rivolgere le vostre domande o le vostre osservazioni. Vi chiedo, come sempre, di essere attinenti al tema che abbiamo trattato, possibilmente di essere brevi, in modo da dare spazio a più persone possibili di intervenire. E fin d'ora vi ringrazio per le chiamate che farete. Thank you. pronto? Buonasera padre. Buonasera, mi dica, con chi parlo? Allora, senta, parlo con una signora di Ancona. Sì. Io volevo fare una domanda diretta, altrimenti dopo mi confondo. Penso che c'è anche il sacro e il profano tra i sacerdoti. Io, ecco, la domanda che gli faccio è questa. C'è un sacerdote di Roma che il giorno di Halloween, 31, per non mandare i bambini vestiti da streghe, gli hanno detto di vestirli tutti da preti. E a me questa cosa non mi convince. E poi lui non dice a lui, ma dice il lui, festeggiamo. Non so cosa significa il lui. Mi può rispondere, padre, perché mi fa confusione questa cosa. Allora, la ringrazio per la sua domanda. Ovviamente io, non conoscendo direttamente che tipo di tradizione, cioè il tipo di iniziativa, diciamo, che questo sacerdote vuole portare avanti, mi astengo dal giudicare l'iniziativa in sé. Dico invece che diverse comunità parrocchiali, diverse realtà pastorali cercano in qualche modo di aiutare a vivere la celebrazione di tutti i santi e le commemorazioni dei fedeli defunti in modo diverso. È vero che i riti pagani, se vogliamo, legati alla cosiddetta festa delle streghe, alla notte delle streghe, si sono molto diffusi tra i nostri ragazzi e all'interno della nostra società, anche solo per un fatto commerciale. È ovvio che non c'è solo il fatto commerciale, però anche solo per un fatto commerciale tutto è stato spinto, no? In un certo senso in avanti. E quindi diverse realtà pastorali cercano di rimediare a questo cristianizzando una tradizione pagana. Ora, quello che fa questo sacerdote di Roma non lo conosco, quindi mi astengo dal giudicare, però sono benemerite tutte quelle iniziative che cercano di riportare nell'alveo della tradizione cristiana alcune di queste iniziative. Del resto teniamo presente, quando il cristianesimo è stato riconosciuto come religione ufficiale di Stato nel IV secolo, il cristianesimo cercò di fare proprio questo, cioè cercò di radicare alcune tradizioni liturgiche, alcune festività, alcune ritualità, modificando il significato di alcune ritualità pagane, cercando di dare un significato diverso, ma evitando di estirpare da un momento all'altro una cosa, lasciando poi senza niente, lasciando una sorta di vuoto. No, si partì da quello che c'era e si cercò adagio adagio di dare un significato cristiano a quello. Ora, penso che diversi sacerdoti, diverse comunità cristiane, diversi consigli pastorali cercano di fare questo percorso, almeno nella diocesi di Milano dove io vivo con la mia comunità religiosa. Noto che la festività di tutti i santi e le commemorazioni dei fedeli defunti sono in genere associate ad alcune ad alcuni modi di celebrare anche in modo diverso cristiano la cosiddetta notte delle streghe. Quindi la ringrazio, signora, per la sua domanda, perché comunque è uno stimolo a riprendere quello che i cristiani dei primi secoli già facevano. Grazie. Pronto? Sì, buonasera padre, sono Laura da Firenze. Mi dica, Laura. Io sto facendo un cammino di conversione, perché il Signore, la Madonna, ha avuto una grazia dove mi hanno aperto gli occhi e veramente sono come rinata. Poi ho avuto un evento molto toccante. In chiesa per la prima volta ho letto, cosa che non avevo fatto mai, che ora addirittura ho 56 anni, e però nel momento che io stavo andando a leggere, vicino proprio al leggio, mi sono sentita come, stavo quasi come cadendo, ma tutto a un tratto mi sono sentita toccare alla testa e ho avuto quella sensazione proprio grandiosa, come dire, vai, non aver paura perché qui ci sono io. Io non so se questo è lo Spirito Santo, io non so cosa dire, però in me è venuto, dentro di me è venuta una forza incredibile e ho letto senza nessun problema, insomma. E non so, ecco, io volevo sapere una spiegazione da lei, che cosa potesse, cosa è stato, diciamo, questo evento così grandioso. Grazie signora Laura per la sua testimonianza, la sua condivisione, no? Lei utilizza due immagini. La prima immagine è quella dell'apertura degli occhi, no? Qualcosa che le ha aperto gli occhi. E la seconda immagine è quella del tocco, no? sulla testa. Anche nella tradizione biblica sono due immagini che simbolicamente dicono a volte l'irruzione, no? Di un'esperienza di grazia dentro di sé. Guardi, io quello che le posso dire è una cosa molto semplice. Come dice Gesù stesso, dai frutti si riconosce l'albero. Se uno fa un'autentica esperienza di Dio, questa autentica esperienza di Dio porta sempre con sé alcune caratteristiche. La prima è la conversione del cuore e l'umiltà. La seconda caratteristica è l'apertura agli altri con l'attenzione soprattutto ai più poveri. La terza è la gioia profonda. Se ci sono queste caratteristiche, penso che quello che lei ha descritto sia veramente qualcosa che viene dallo Spirito Santo. Se non ci sono queste caratteristiche, forse è stato solo una mano di passaggio che le ha toccato i capelli, tutto qui. Ma penso che quando uno fa un'autentica esperienza di Dio, l'autentica esperienza di Dio è sempre accompagnata da una grande pace, da una grande gioia interiore e soprattutto dalla conversione del cuore. Ecco signora Laura, tutte le volte che lei proclama la parola di Dio, no, all'interno dell'assemblea liturgica, leggendo le letture, facendo il ministero del lettore, preghi tanto perché anche una sola di quelle parole possa entrare nei cuori e plasmarli. A volte si resta stupito, no, leggendo le agiografie, le biografie dei santi, perché quello che emerge è che a volte è proprio una parola che ha capovolto, trasfigurato, cambiato completamente la loro vita. È successo ad Agostino, è successo a Francesco, è successo a Teresa di Lisieux, cioè quante persone di fronte a una parola di Dio hanno trovato quel perno attorno al quale costruire tutta la loro esperienza umana e di fede. E anche stasera in fondo, commentando il capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, abbiamo visto che c'era qualcosa del genere, cioè per Elimas da un lato e per Sergio Paolo dall'altro è avvenuta la stessa cosa, per Elimas in modo molto deciso, per cui è piombata su di lui la cecità che forse l'ha condotto a un certo punto a una conversione del cuore, per Sergio Paolo invece il completamento di quell'intelligenza che da solo non gli aveva ancora dato granché, per cui era sempre in ricerca, forse incontrando la parola di Dio annunciata da Paolo e Barnaba ha trovato quello che effettivamente cercava. Grazie di cuore signora Laura per la sua condivisione. Pronto? Sono Maria Grazia, telefono da Rovereto. Mi dica Maria Grazia. Buonasera, grazie per la sua fede che ci dà. Ecco, volevo segnalare, sottolineare questo, o Gesù o la superstizione, e sappiamo quanti adesso ricorrono ai maghi. E guardando i cartoni per i più piccoli, mi rendo conto che li stanno inculturando sulla, come se la magia fosse una cosa normale. E non so se i genitori si rendono conto di questo. Volevo il suo commento, la ringrazio, la saluto. Grazie di cuore Maria Grazia, certamente la superstizione si manifesta in diversi modi e uno di quelli può essere quello della magia, no? Tutto ciò che è legato all'ambito del mistero è qualcosa che attira, solo che a volte nell'ambito del mistero noi ci spingiamo un pochino troppo in là e si gioca col fuoco. Io non sono esperto di questi elementi, per, Rimando a tutti gli approfondimenti che su questo argomento ha fatto il mio confratello Don Gabriele Amor, che è paolino come me e che è stato in congregazione molti anni prima di me, conoscendo anche i nostri beati, i nostri fondatori. Quindi lui tiene catechesi di approfondimento non solo sugli esorcismi, ma anche sul tema della superstizione, sul tema di queste forme di sincretismo a volte ambigue. Certamente bisogna vigilare. Nello stesso tempo non bisogna nemmeno esagerare. Cioè una certa attenzione al mistero fa parte di una certa narrativa, di una certa fiction tipica soprattutto della letteratura per ragazzi. Teniamo presente che ci sono due modi di trattare il tema, non tutto è negativo, ci può essere anche un modo di trattare gli argomenti legati al mistero che sono buoni, che sono positivi. Quindi, come dire, l'importante è avere la sapienza giusta per discernere. È vero che questo non è sempre chiaro, però leggendo forse tra le righe di alcuni romanzi, di alcune serie televisive, di alcuni cartoni animati, forse si può capire anche quali possono essere i rischi e i pericoli. In ogni caso, nel momento in cui ci rendiamo conto che ci sono dei pericoli, bisogna anche avere il linguaggio adeguato per spiegare queste cose ai propri figli e ai propri nipoti, cioè mettersi lì con calma e spiegare la cosa, non limitarsi a dire no, questo è male, non guardarlo, perché altrimenti si può ottenere l'effetto contrario. È un pochino anche questo il messaggio che ci proviene dal brano che abbiamo commentato questa sera, cioè Sergio, il confronto con Bariesu o Elimas, come vogliamo chiamarlo, il mago, e Sergio Paolo, fanno capire alla comunità cristiana che la missione è anche una sfida, una responsabilità, e ci si può arrivare solo se preparati, solo se inviati e illuminati dallo Spirito Santo, altrimenti non si è in grado di dare le risposte adeguate. Grazie di cuore Maria Grazia per la sua domanda. Pronto, buonasera. Padre Giacomo Papirigo, volevo farle questa domanda. Da dove chiama, signora? Sono Concetta e chiamo d'Aosta. Bene, mi dica. Senta, oltre all'Antico Testamento e al Nuovo Testamento, che sono parola di Dio, anche gli Atti degli Apostoli e le lettere di Paolo vengono proclamate come parola di Dio. A volte mi lascia un po' perplesso questo, perché mi sembra che siano dei semplici resoconti. Mi viene in mente una lettera di Paolo in cui dice portami il mantello che ho dimenticato. Ecco, perché la Chiesa ha deciso che anche queste devono essere definite parola di Dio? Grazie signora Concetta, la sua domanda è una domanda importantissima, importantissima, perché prima di tutto la rivolge a un paolino, e quindi a un appassionato di San Paolo, oltre che figlio di San Paolo, e quindi di fronte a una domanda del genere mi verrebbe da stracciarmi le vesti, però ovviamente non lo faccio, anche perché si avvicina l'inverno. Diciamo che San Paolo è il grande testimone delle prime generazioni cristiane. È vero, lei dice, ma noi abbiamo i Vangeli, brava! Noi abbiamo i Vangeli, ma quando sono stati scritti i Vangeli? I Vangeli sono stati scritti dopo quelle lettere di Paolo che noi leggiamo nelle comunità cristiane. Le lettere di Paolo sono il primo documento cristiano in nostro possesso. Il documento cristiano più antico che noi abbiamo tra le mani è la prima lettera ai Tessalonicesi, scritta probabilmente attorno agli anni 50. Quindi lì noi abbiamo la testimonianza di quello che le prime comunità cristiane credevano, degli interrogativi che accompagnavano queste prime comunità cristiane, dei contrasti che c'erano. E questo ci aiuta a capire che la fede non è che sia arrivata come un pacchetto regalo già pronto dall'altro, già confezionato, con dentro un pane che noi dobbiamo mangiare così com'è. No, la fede è stato come una sorta di forno dove il pane è stato preparato, amalgamato, grazie al contributo di ogni credente. E quindi avere questa testimonianza attraverso le lettere di Paolo è un elemento fondamentale, anche quando ci troviamo con pagine come quella che lei citava. Portami i mantelli che ho lasciato in casa di Carpo, vieni presto con me, e lì abbiamo un Paolo che è rimasto solo. Il brano da lei citato è tratto dalla seconda lettera a Timoteo, è il testamento spirituale dell'Apostolo, cioè avere tra le mani il testamento spirituale di un gigante come San Paolo è fondamentale. È ugualmente si dica per alcune pagine dell'Antico Testamento. Noi diciamo, ma insomma, che me ne faccio di alcune pagine che sono degli elenchi di nomi e di numeri? Cosa me ne faccio di quelle pagine? Quelle pagine ci aiutano a capire che la storia della salvezza è una storia fatta di nomi dietro i quali ci sono dei volti, dietro i quali ci sono delle famiglie. Pensate anche solo alla genealogia, cioè al racconto di quei nomi che aprono il Vangelo di Matteo. La liturgia ha deciso di proclamarla durante le festività. Durante le festività ha deciso di proclamare la genealogia, un elenco di nomi che uno, ascoltarlo così, dice: ma cosa me ne faccio di questi nomi? Eppure dietro ognuno di quei nomi c'è una storia. Alcune storie sono edificanti, altre sono scabrose, però ci fa capire che Dio, quando ha abbracciato l'umanità, l'ha abbracciato con i suoi chiari occhi, l'ha abbracciata con i suoi elementi di forza, i suoi elementi di debolezza, l'ha abbracciata con i suoi peccati e con le sue virtù. Nulla è lasciato intentato, e quindi questo è stupendo. Pensiamo anche ad alcune immagini utilizzate dall'Apostolo Paolo. Ieri nella liturgia ambrosiana, era la festa della dedicazione del Duomo, la lettura tratta dall'Epistolario ai Corinzi riportava la frase dove Paolo dice ai credenti di Corinto: noi siamo l'edificio di Dio, noi siamo la casa di Dio. È un'immagine stupenda. Come immaginiamo la casa di Dio? Come la immaginiamo? Con le porte chiuse? Impossibile, deve avere le porte aperte. La immaginiamo disabitata? Impossibile, è una realtà dove c'è sempre qualcuno sulla porta ad aspettarci. C'ha la tavola vuota? No, è sempre una tavola imbandita. Ora, noi siamo una casa di questo tipo? O la nostra casa è la casa dei cancelli, è la casa del fai da te, è la casa del self-service? Che tipo di casa di Dio siamo? Ora, questa immagine ce la regala Paolo, ed era la prima immagine, una delle prime immagini che veniva data alla comunità cristiana, ovviamente insieme ad altre, come a quella di essere corpo di Cristo, quella di essere campo di Dio. Cioè, questo per dire, ci sono tutti gli elementi per poter dire davanti alle lettere di Paolo parola di Dio, parola carica dello Spirito di Dio, parola di riferimento per il nostro cammino quotidiano. Grazie signora Concetta, perché questa sua domanda ci riporta anch'essa al brano degli Atti degli Apostoli, perché Sergio Paolo cercava con tutta la sua intelligenza qualcosa che fosse per lui punto di riferimento, e ascoltando la Torah e i profeti non gli bastava, sentiva che le scritture ebraiche non portavano a quella ricerca di pienezza che lui aveva. Ascoltando Paolo, il cuore gli si è aperto. E allora, a pieno titolo, insomma, tutte le scritture che noi consideriamo ispirate rispondono a quella ricerca interiore che noi abbiamo, comprese le lettere di San Paolo. Grazie, signora. Pronto, buonasera. Buonasera, sia lodato Gesù Cristo. Sempre. Sono Italo Guglielmo e parlo da Padova. Intanto la voglio ringraziare tanto per quello che lei ci ha spiegato questa sera. Io, come da lei suggerito, ho preso gli Atti al capo 13 e ho seguito la sua lezione. Con riferimento all'ultima risposta che lei ha dato alla precedente ascoltatrice, lei giustamente dice che il primo scritto riguardante il Vangelo, io lo chiamo così impropriamente, lo dà Paolo con la sua lettera, mi pare, ai Tessalonicesi. Io nel Vangelo che ho in mano, al capo 13, leggo: invio in missione Barnaba e Saulo nell'isola di Cipro. Allora, prima che dicesse che il primo scritto lo ha fatto Paolo, io come riferimento avevo pensato immediatamente al capo 16 di Giovanni l'Evangelista, in cui, parlando dello Spirito Santo, Giovanni ci dice: e quando sarà venuto lo Spirito Santo, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Devo confessarle che dopo la crocifissione e la resurrezione, questo mi è sembrato il momento più alto dell'insegnamento del Maestro. Allora mi domando, se lo Spirito, attraverso lo Spirito Santo, Gesù ci dice che lui qui non tornerà più, e che riguardo al giudizio Satana è stato definitivamente sconfitto, e io sono assolutamente certo di questa affermazione, perché chi crede in lui non può essere abbindolato da Satana, che senso ha allora la missione? Ecco, questa è una domanda per me molto importante, e se lei mi può rispondere, perché mi sembra già conclusivo il discorso che fa Gesù attraverso Giovanni. Lei, se può illuminarmi, mi farebbe cosa molto gradita. Grazie di cuore, signor Italo, per la sua domanda. Allora, mi soffermo sulla parte finale, che mi sembra fosse quella che racchiudeva l'interrogativo di fondo. Che senso ha la missione se lo Spirito Santo in fondo ha già chiarito ogni cosa, o comunque ha il potere di chiarire ogni cosa al nostro cuore? Allora, secondo me la missione ha un duplice significato, un duplice valore. Prima di tutto verso i destinatari della missione, perché l'arrivo del cosiddetto missionario che porta dentro di sé prima di tutto una testimonianza di vita, una testimonianza di comunione. Il missionario non è mai un battitore solitario, in genere è espressione di una comunità, no? E solo così ha anche una certa fecondità, un certo impatto, porta con sé sempre il confronto con alcuni punti, alcuni aspetti che in genere uno non tiene presente. Faccio un esempio concreto: le missioni parrocchiali o le missioni cittadine. Perché le missioni cittadine sono un'iniziativa, un'esperienza da sostenere, da promuovere, da accompagnare con tanta preghiera? Perché sono occasioni uniche in cui le persone più diverse entrano in contatto con la parola di Dio, nei modi più diversi, attraverso la predicazione, attraverso la riconciliazione, attraverso forme di spettacolo, altre forme di interazione, attraverso la visita nelle famiglie, cioè qualcosa che spezza il clima normale per suscitare l'attenzione del cuore, cioè è un momento di grazia, un momento di passaggio. Pensiamo al caso di Giona con gli abitanti di Ninive. E se nessuno, per quanto Giona fosse un profeta scalcagnato e testardo, però se Giona non andava e non portava la sua nenia, perché deve essere stata proprio quella di Giona, perché non era molto convinto della bontà dei niniviti, se non portava nemmeno quella nenia, a Ninive nessuno si sarebbe posto il quesito circa il proprio stile di vita. Invece lì, quel passaggio di un missionario, per quanto poco convinto, per quanto un po' ostico, ha portato una parola, grazie all'azione dello Spirito, ha toccato i cuori. Quindi, prima cosa, il primo valore è nei confronti della persona, perché è vero che lo Spirito agisce, però lo Spirito ha bisogno della docilità del nostro cuore, dell'apertura di un terreno che comunque si apre per accogliere e custodire. Quindi questa è la prima azione del missionario. C'è però poi un secondo valore, il secondo valore è per il missionario stesso. La bellezza delle lettere di Paolo, che veniva un pochino messa in discussione dall'ascoltatrice precedente, è che diversamente dai Vangeli, le lettere di Paolo non ci danno un personaggio, come dire, già confezionato e finito. nei Vangeli noi conosciamo dei personaggi sostanzialmente confezionati e finiti, perché ci vengono fotografati in quella precisa circostanza. Nelle lettere di Paolo no, noi seguiamo Paolo nella maturazione della sua personalità, nella maturazione del suo stesso pensiero. Il Paolo degli anni 40 è diverso dal Paolo degli anni 50 o degli anni 60. Notiamo che su alcuni elementi fondamentali del suo pensiero, su cui lui era battagliero, cambia idea anche su concetti cristiani. Perché? Perché l'esperienza della missione lo matura, lo ha aperto al confronto, l'ha stimolato, l'ha portato ad approfondire alcune cose e a farsene una ragione, a convincere sempre di più. Quindi la missione è sempre, come dire, un dono che si dà e si riceve. Ecco perché il Santo Padre continua a insistere che le comunità cristiane devono vivere non in difesa ma in uscita, cioè devono essere comunità in uscita, comunità missionarie, perché nel momento in cui escono si confrontano con una realtà altra e questo di conseguenza porta anche ad una maturazione della propria identità. Certo, uscire significa anche giocare una carta di grande responsabilità.